L'altra sera sono stato alle Nazioni Unite, dove c'erano Bill Clinton e Tony Blair, i due grandi vecchi leoni del centrismo della sinistra internazionale, e gli interpreti del movimento cosiddetto della terza via, e hanno strizzato l'occhio a Barack Obama. A questo punto toccherà al presidente decidere se raccogliere l'invito, che per ora è informale, molto morbido, e dunque andare all the way, fino in fondo, rompendo definitivamente, poi con la sua base elettorale, che è molto più a sinistra e molto delusa da lui per questo compromesso che ha fatto con i repubblicani sul prolungamento dei tagli fiscali di George W. Bush, e formalizzare la sua partecipazione, la partecipazione della sua Casa Bianca, a quel movimento politico che negli anni 90 fu guidato da Bill Clinton e spostò parecchio a destra il baricentro politico della sinistra americana e comunque della sinistra internazionale. The other thing I think that is important for places like the UK and the United States to do, if we're trying to make peace, is to paint a picture of what it would look like after it was over, so you make the strongest possible argument that it's in the interest of the parties to make compromises and hold their nose and do whatever has to be done to get there. Avete riconosciuto sicuramente la voce dell'ex presidente americano e questo ammiccamento che ha fatto lunedì sera a questo incontro avvenuto alle Nazioni Unite nei confronti del suo successore. L'incontro è stato parecchio interessante, l'idea era quella di lanciare nuovi leader della terza via, soprattutto leader europei che rappresentano, secondo Bill Clinton, la nuova generazione.